Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartone animati. Due uomini corrono a perdifiato, trascinando pesanti taniche d'acqua. Tutt'intorno strade divelte, palazzi sventrati, macerie fumanti. Nell'aria sospesa, qua e là, un grido d'allarme. L'uomo che sembra più anziano ha i capelli bianchi arruffati dal vento. Inciampa, cade, ma poi si rialza e riprende la corsa. Durante due soste per riprendere fiato, confida all'altro che ha passato mesi e mesi chiuso in un laboratorio, nel tentativo di risolvere la formula di una vecchia sostanza chimica, e che i suoni delle sostanze che sgocciolavano sembravano a tratti la musica di una misteriosa canzone. Poi è scoppiata la guerra, e da allora si è dedicato solo a proteggere la cinemateca della città, di cui è direttore. Che ne resti la memoria, dice, e con occhi spauriti di bambino conclude: ma adesso, che senso potrebbe avere qualsiasi cosa, in mezzo a tutto questo massacro? Mine antiuomo, cluster bombs, cecchini fantasma, chirurgia dell'orrore. In quella voce affannata c'è la furia bestiale dell'uomo sull'uomo che ha attraversato i suoi occhi per canali segreti. Si è fatta suono, agonia di parola, radiografia vocale di un paesaggio straziato. Poi, in un lampo di improvvisa ironia, mormora: in questa città la migliore amica degli uomini è la nebbia. Manca la visibilità. I tiratori sono costretti a fare una pausa. Qui i giorni di nebbia sono giorni di festa. I due stremati riprendono infine la corsa. Li vediamo di spalle correre verso un ponte e attraversarlo. Ma prima di averlo passato completamente, una voce da un altoparlante gli intima di fermarsi. Stop! L'uomo giusto, narra una leggenda turca, raggiunge l'altrove attraversando una passerella più sottile di un capello e più affilata di un rasoio. Un arco celeste, purissimo. Il giorno dopo i nostri uomini sono ancora vivi. Via da Mostar, diretti a Spalato. Da lì a Zagabria, in aereo raggiungono Skopje, in pullman Florina. In una stanza d'albergo, l'uomo che sembra più anziano ripensa ai suoi film. Una sequenza ininterrotta contro la cultura della morte. È notte adesso e vorrebbe dormire. Il suo cuore è stanco, troppa guerra negli occhi. Ma mentre si addormenta si domanda se correre trascinando pesi fra le macerie di una città sia una pena infernale adeguata per un attore. E con un sorriso beffardo, Gianmaria Volonté varca il suo ponte verso l'ignoto. Quelle girate a Mostar il giorno prima sono le sue ultime immagini. Thank you. È uscita una bellissima pubblicazione dei CD del Manifesto. Fra l'altro è un CD più un DVD, dal quale ci siamo ascoltati un doppio estratto, un estratto recitato e un estratto cantato. Infatti è così, è una accoppiata per ogni luogo del mondo. Questo cofanetto si intitola I Viaggi Perduti, e i viaggi perduti sono in quei luoghi del pianeta che un tempo si potevano raggiungere e scoprire, seguendo il proprio spirito di avventura, grande e piccolo che fosse. Questi luoghi sono diventati viaggi perduti, e a distruggere quei viaggi sono state le guerre, la fame, il nuovo colonialismo, gli odi razziali, il terrorismo, il fanatismo, i disastri ecologici. Il luogo di cui abbiamo parlato quest'oggi era la Bosnia, prima con Fabrizio Gifuni e poi con Ginevra Di Marco. E questa invece è eclettica, con la voce di Giulio Caperdoni, presente tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, che prosegue con la musica, con la carica, con l'energia, con le chitarre dei The Blakes da Seattle. Can't get my mind off your photograph. Wanna put a ring on your little finger. When I propose to you, you just laugh. You squish me flat with your thumb and finger. When I call you up on your telephone, you always say that you want me to come over. You shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. You shake, shake, shake, shake. You think I'm too dumb to when you roam. Cocaine and drugs and alcohol. The one offend from you, girl. The one offend from you. The one offend from you. The one offend from you. Tired of your words, tired of themselves. Tired of your friends and the things they do. I'm standing here on the corner, baby. And I'm tired of waiting here for you. I don't want nothing from you, girl. I don't want nothing from you. You shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. You shake, shake, shake, shake. You think I'm too dumb to when you roll. Cocaine and drugs and alcohol. I don't want to fend from you, girl. I don't want to fend from you. I don't want to fend from you. I don't want to fend from you. Don't want to fend from you. Date, Sunday, November 13th, 1955, 7:01 a.m. Last night's time travel experiment was apparently a complete success. Lightning struck the clock tower precisely 10:04 p.m., sending the necessary 1.21 gigawatts into the time vehicle, which vanished in a brilliant flash of light, leaving a pair of fire trails behind. I therefore assume that Marty and the time vehicle were transported forward through time into the year 1985. After that, I can't recall what happened. In fact, I don't even remember how I got home. Perhaps the gigawatt discharge, coupled with the temporal displacement field generated by the time vehicle, caused a disruption of my own brain waves, resulting in a condition of momentary amnesia. Indeed, I now recall that moments after the time vehicle disappeared into the future, I saw a vision of Marty say he had come back from the future. Hey, Doc? Undoubtedly, this was some sort of invisible image. Doc, calm down, okay? Just calm down. It's me, it's Marty. No, it can't be you. I sent you back to the future. That's right, Doc. That's right, but I came back again. I came back from the future. Don't you remember last night? You fainted. I brought you home. This can't be happening. You can't be here. It doesn't make sense for you to be here. I refuse to believe that you are here. Doc, I am here, and it does make sense. Look, I came back to 1955 again with you, the you from 1985, because we had to get a book from Biff. So once I got a book back, you, that is the you from 1985, we're in the DeLorean, and I got struck by lightning, and you got sent back to 1885! It's a very interesting story, future boy, but there's just one little thing that doesn't make sense. If the me of the future is now in the past, how could you possibly know about it? You sent me a letter. 1, 2, 3, 4. They told me about the strawberry field, living in a mixtape and picking all the fruit that yield. I made a tape so you could see it was real. I dubbed you a copy just so you could see how I feel. Stavamo cenando quando zio Clito emerse dalla tempesta di neve. Si tolse le soprascarpe, si alitò nelle mani ghiacciate e fece il suo ingresso in sala da pranzo. Papà gli chiese se voleva un po' di pasta e fagioli, ma disse di no. A cavalcioni su una sedia, il mento poggiato sullo schienale, i suoi vigili occhi scuri presero a esaminare il tavolo. Presero nota del vino, di quanto papà ne aveva bevuto, di quanto burro avevamo spalmato sul pane e di tutto il resto. Mamma si aggiustò il vestito e i capelli. Con zio Clito bisognava stare bene attenti. Era maestro nello scoprire qualcosa fuori posto. Noi bambini, per dire, nascondemmo subito le mani perché non potesse vederci le unghie poco curate. Questo era l'incipit di Quella donnaccia di John Fante. Thank you. to fall asleep with my demons dying and my pilot light weak. I curse the last 6 months I've been hiding behind a mustache, yeah. And to those last 10 years I've been howling a paper moon. Well, fuck you. This goes out to all my underdone, undertongue, long, long front men. This is what the ghost someone's dead says. And all us earth grows, some planted and some pulled. Shine a flashlight in a hat box and spin an empty oyster shell and celebrate. Eclettica, che come ogni sera vi accompagna ad Arden Davy quando arriverà Marco Garavelli attorno alle ore 20. Eclettica che vi ha fatto ascoltare dopo i già annunciati The Blakes, prima i Creeping Weeds con I'm a Donkey for Your Love e poi Why, un estratto dall'ultimo album dei Why intitolato The Hollows. Ed Eclettica che prosegue con un artista che io ho scoperto grazie ad una compilation che è arrivata nelle mie mani, una compilation che si intitola pop.fr, così alla internet, e che dà indicazione di quali sono le novità del pop francese. La cosa strana è che l'artista che io vado a scegliere è un artista statunitense che però fa di base a Parigi da un gruppo tutto composto da musicisti francesi. Lei si chiama Kelly De Martino e questa è Bumblebees. I would swallow bumblebees for you. And I've been swallowing bumblebees for you. I don't think you even noticed. I don't think you even know. bricks for you. I've been carrying tons of bricks for you. I don't think you even noticed. I don't think you even know me. Anni fa ce ne andammo da Los Angeles e comprammo una casa a Roseville, cittadina sulla ferrovia vicino a Sacramento. Sulle prime, per motivi che poi spiegherò, a mia moglie quella casa non piacque. Però eravamo stanchi di cercare, il prezzo era alla nostra portata e a me il posto piaceva pure. Una domanda sorge spontanea. Primo, che accidenti ci facevamo a Roseville, dal momento che è un posto così rumoroso? A 18 miglia dalla capitale dello Stato, Roseville è il principale snodo ferroviario della Southern Pacific Railroad. La popolazione è di circa 12.000 unità e ci sono più vagoni che persone. Questo era l'incipit del caso dello scrittore tormentato di John Fante. So many patch of scars. Oh, how we traveled far. We're right back at the start. But I'm trying. So many back roads. Here's a brand new batch of scars. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 6, volume numero 1, indice We Are Scientists, Frightened Rabbit, Cuzzo, Giuliana Berwick, Kiddy Car, Intelligence, Fabrizio Gifuni, Ginevra Di Marco, The Blakes, Creeping Weeds, Why, Kelly De Martino, Oliver Future. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.